1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ci siamo alle 7:20 minuti in punto, cari ascoltatori, siamo qua a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi avremo ospite Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, questo alle 8:35. Avremo anche ospite Eva Klotz alle 8:20, con lei che si è presa un bel vitalizio da 900.000 e rotti dallo Stato italiano come ex consigliere provinciale a Bolzano. Allora, siamo pronti a leggere i giornali? Avanti. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. E allora, eccoci qua, anche con le parole di padre Livio, contento e saltellante come un canguro, perché è la legge delle unioni civili. Ha una pausa, un time out, via coi giornali. Eccoli qui, in questo giovedì 18 febbraio i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore è sempre sulla questione finanziaria, rally di borse e petrolio, Piazza Affari sale del 2,5%, questo è il titolo di prima pagina. Mentre il Corriere della Sera, così come la Stampa e il Giornale, si dedicano al debito pubblico italiano e anche alle accuse volate ieri in Parlamento, in Senato, tra Renzi e Monti, l'ex premier. Veti, accuse, Renzi gela Berlino. È il titolo del Corriere della Sera, mentre la Stampa, la spallata di Monti per far cadere Renzi, basta attaccare l'Unione Europea. È una sfida in Senato e la Stampa parla ancora di complotti, poi li vedremo. Il Giornale invece, documento shock sul debito, economisti vicini a Draghi avvisano Renzi, se non cambi dovrai mettere le mani nelle tasche degli italiani. Il rischio patrimoniale che affiora in prima pagina del Giornale. Mentre il Messaggero mette questa bella cifra per Roma. Cari amici di Roma, che pensate alle Olimpiadi? Debito e IRPEF affondano Roma. Il dossier del commissario scozzese, ex assessore, c'è una voragine record di 13,6 miliardi nei conti del comune. E già si dice è impossibile così ridurre l'addizionale IRPEF. Repubblica invece, siamo alle unioni civili, legge nel caos, questo è il titolo di Repubblica. Avvenire invece, adozioni e forzature fanno slittare la legge, mentre il monito dell'unità in prima pagina è questo: i bambini ci guardano. Il PD vuole la legge, ma le unioni civili slittano al 24 febbraio dopo il voltafaccia dei 5 Stelle. Il Manifesto invece, volano gli stralci sulle unioni civili dette in un vicolo cieco. Ci sono poi due quotidiani che fanno titoli simili, le invasioni barbariche di Renzi per Libero e Rai, le invasioni barbariche per il Fatto Quotidiano, per una vicenda dalla quale voglio partire che riguarda le nomine che verranno poi ratificate, certificate al 100%, confermate oggi dal Consiglio di Amministrazione della Rai. Per i direttori di rete. Oh, io lo dico come premessa: a quanti italiani, su 100 italiani, a quanti secondo voi interessano questi nomi e queste nomine? Io dico a 2-3 forse italiani. Però i giornali ci sguazzano in queste cose, ci sguazzano perché vuol dire poi sguazzare nel potere, nei rapporti di potere tra la politica, la TV pubblica. Comunque Andrea Fabiano, nuovo direttore di Rai 1, Ilaria Dallatana, nuovo direttore di Rai 2, ma soprattutto il nome su cui si discute di più è Daria Bignardi, nuovo direttore indicato e oggi sarà confermata di Rai 3. Ed eccolo qui il titolo, le invasioni barbariche, cioè l'accusa che c'è su molti giornali è la vicinanza, l'amicizia nei confronti del Presidente del Consiglio. Si ricorda quando il marito di Daria Bignardi, Luca Sofri, dietro le quinte di una puntata delle invasioni barbariche, si rivolse a Renzi chiamandolo «Ehi, capo!», questa parola, capo, che con tutto immortalato da un video del Fatto Quotidiano. E insomma si dice sono amiche, è lì soprattutto perché è amica di Renzi. Lo dice per esempio Carlo Freccero, che è nel CDA della Rai, da sempre molto critico, però anima critica di quello che succede in Rai. Tutto bene, dice Freccero al Fatto Quotidiano, questa volta è filato tutto liscio, ma poi è caduto Campo Dall'Orto, direttore generale, sulla Bignardi. Mi è caduto sulla Bignardi. Ma vi pare che non so che il marito della Bignardi lo chiamò capo a Renzi? Chiariamo, io sulla Bignardi non posso eccepire nulla perché non la conosco, ha fatto anche cose buone, ma quelle interviste a Renzi sono insopportabili, è insopportabile come suo marito si rivolge a quello che non era ancora presidente del Consiglio. Diciamo, ho detto comunque, non conto niente, ma ho detto a Campo Dall'Orto che dare a Bignardi se la potevano evitare e che per me il problema c'è. Quindi cosa farò ora? Beh, per me queste nomine sono complessivamente positive, il direttore di Rai 1 ad esempio, una volta tanto, ma vigilerò su tutto il resto, Daria Bignardi compresa, e comunque i problemi non erano le nomine, i veri problemi arriveranno fra un po' di tempo con le nomine dei telegiornali, direttori dei telegiornali. Vabbè, comunque le nomine in Rai. Se vi interessa, ci sono paginate ovunque. A me interessa di più sapere alcuni numeri, tipo questo. L'ho detto in apertura del Messaggero. Cari amici di Roma, sappiate che dovete avere a che fare con un buco nero da 13,6 miliardi di euro. Per la verità, ieri Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle ci ha detto 22 miliardi questa cifra. Comunque, la cifra certificata dal commissario Silvia Scozzese, che era già stata assessore ai conti, assessore alle finanze con il sindaco Marino e dallo scorso agosto poi è commissaria del debito su nomina del governo, ha certificato in 13,6 miliardi il buco nero, una voragine che inghiottisce tutti i romani costretti a pagare chissà ancora per quanto l'aliquota IRPEF più alta d'Italia. Pagina 4 del Messaggero, ci sono tutti i conti nell'articolo di Simone Canettieri e Fabio Rossi, 13,6 miliardi. L'IRPEF ovviamente resta al top. E a lei sarete sicuramente contenti. Mentre questa notizia, è un pochino già da mani sul volante, Non so se vince il premio, anzi non lo vince il premio, ma eccola qua su Libero, siamo a pagina 10. Assunti a loro insaputa. Sapete che a insaputa in Italia si fanno tante cose. Succede che è una truffa all'INPS, di fatto. Erano assunti in ditte con sedi in mezza Italia, da Caserta a Cologno Monzese, da Casaluce a Salerno, da Treviso a Taranto, ma non lo sapevano. Risiedevano in posti mai visti e conosciuti. Percepivano uno stipendio senza aver mai lavorato, ritrovandosi con richieste di disoccupazione mai presentate, incompatibili col sussidio di cui sono beneficiari, e quindi ora rischiano di perdere il sussidio. Succede a un centinaio di precari siciliani che hanno scoperto questa truffa, devo dire anche ai loro danni, oltre che ai danni dell'INPS, per conto terzi, perché rischiano di perdere il sussidio pubblico di 830 euro al mese. E perché lo perdono? Perché l'INPS ha scritto dicendo: voi risulta già che voi avete una pensione. E scoppia il casus belli a Palermo quando una signora si presenta all'INPS a dire: come mai mi avete tolto il sussidio? Ho scoperto di avere guadagnato 1.300 euro al mese per un lavoro da impiegata in una ditta della provincia di Salerno con un contratto della durata di 51 settimane, solo che io non ho mai firmato quel contratto, non conosco quell'azienda, non ho visto mai un euro, non sono mai stata a Salerno e rischio di perdere il sussidio, in più devo pagare le tasse per un reddito che risulta che mi hanno dato e non ho mai percepito. Controllando la mia posizione INPS ho scoperto anche che risulto domiciliata a Bologna, ma io non ci sono mai stata. Insomma, questa è la truffa all'INPS e a queste persone, evidentemente l'utilizzo di identità raccontata da Libero. Mentre, signori, a proposito di stipendi, sappiate che il cardinal Bagnasco, che peraltro ha sempre smentito, però adesso c'è un mistero a questo punto perché alcune inchieste lo raccontano, Nina Fabrizio lo racconta sul Giorno a pagina 14 e 15, il cardinal Bagnasco percepirebbe, bisogna usare il condizionale a questo punto, una pensione da 4.000 euro, baby pensione, come ex cappellano militare. Una cifra svelata da inchieste giornalistiche, però mai confermata dal diretto interessato, anzi seccamente smentita dal vicario dell'ordinariato Don Angelo Frigerio, secondo cui né lui né l'altro predecessore Monsignor Mani riceverebbero alcunché. Sta di fatto che i cappellani militari ricevono ovviamente una pensione, costano allo Stato italiano oltre 8 milioni di euro l'anno e sono 176 sacerdoti, 5 vicari episcopali, percepiscono la pensione e il vitalizio mensile del Cardinal Bagnasco sarebbe equiparato a quello di un generale dell'esercito, 4.000 euro al mese. È vero? Non è vero? Così, per chiarezza, sarebbe bello, per trasparenza, saperlo. Saperlo o smentirlo? Tutto qui. Ma eccoci qui. L'articolo che vince il premio Mani sul volante, per l'articolo cioè che ci fa più sore della giornata, è questo. Il dossier di Open Police raccontato da Sergio Rizzo a pagina 15 del Corriere della Sera. Così i politici aggirano il divieto di poltrone nei CDA delle aziende. Ci sono 138 parlamentari che hanno anche incarichi societari. Di questi, ben 52 hanno più di un incarico societario. Dati che, è vero, si riferiscono al 2014, per cui non sappiamo se da quando è stato pubblicato questo articolo, che si riferisce al 2014, sono passati un anno e mezzo, siano cambiate le situazioni. Però 49 senatori, 83 deputati e 6 membri del governo risultano appunto ancora con incarichi societari. Alcuni diversi incarichi societari nei CDA delle aziende. Per esempio, il democratico Marcucci, l'autore del Super Canguro, avrebbe 11 incarichi societari, primatista tra i senatori. Questo è il 2014. I politici così aggirano il divieto di poltrone nei CDA delle aziende. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il... Ma chi è Alessandro Milan? Eccoci qua, caro ascoltatore, sono io. Allora, il Corriere della Sera fa un'intervista con Fabrizio Roncone a Monica Cirinnà, la senatrice da cui proviene il nome della legge sulle unioni civili, perché queste unioni civili hanno ora subito un time out, così chiamato da Renzi, come si fa nel basket. Time out, una settimana di sospensione. E Monica Cirinnà si toglie qualche sassolino dalle scarpe nell'intervista di Fabrizio Roncone, la trovate a pagina 3 del Corriere. Vabbè, si dice amareggiata, delusa, anche un po' stanca, ma poi da questa lettura, certo, critica il Movimento 5 Stelle dicendo si sono rimangiati tutto, non hanno avuto neanche un filo di vergogna, imbarazzo, ma che modo di fare politica è? Però poi dice, guardi che io pago la lotta e la guerra profonda tra i renziani, una cosa tremenda. Come tra i renziani? Ma sì, una cosa... Pago le delusioni di chi, e sono tanti, nutriva forti aspettative nell'ultimo rimpasto di governo. Stavano tutti lì ad aspettare il premietto, una promozione, chi voleva guidare la commissione, chi voleva diventare sottosegretario, e allora sono scattati volgari ripicche, atteggiamenti assolutamente disgustosi sia in aula che fuori. Mi creda, dice la Cirinnà, pago le porcate che mi hanno fatto i renziani in guerra, contro i quali, come si è visto, ho potuto purtroppo fare poco. Dunque Monica Cirinnà accusa direttamente pezzi del suo stesso partito. E ora che accade? Mi pare evidente che il testo non sia più centrale. Poi annuncia addirittura abbandono per sempre la politica, poi scrive Roncone nel pomeriggio, smentisce, no, non l'abbandono. E sull'idea di ricucire col Movimento 5 Stelle... risponde concludendo l'intervista a Cirinnà: mi ascolti bene, io ho un brutto carattere e se qualcuno mi fa una storta non gli parlo proprio più. Qui Roncone chiude l'articolo spiegando che cos'è la storta, parola molto in voga a Roma, abbastanza intraducibile, insomma qualcosa che sta a metà tra la scorrettezza e la mascalzonata. E allora così Monica Cirinnà. Renzi invece ha chiamato il time out. Domenica c'è la direzione del partito, insomma fino a domenica tutto sospeso e poi si vedrà la prossima settimana. Anche se ieri si parlava di una possibile vittoria di Alfano, cioè stralciare la stepchild adoption, toglierla, e far approvare la legge senza. Ma Renzi, secondo Carmelo Lo Papa su Repubblica pagina 3, non vuole sentirci da quell'orecchio. Io di stralcio non voglio sentir parlare, vorrei fosse chiaro, dice Renzi ai suoi. A maggior ragione dopo quel che è successo, il disegno di legge sulle unioni civili non lo cambiamo noi, compresa la stepchild adoption, non la daremo vinta ai grillini e a chi vuole sabotare. Anche se lo stesso articolo di Repubblica dice che la legge è un po' in un cul-de-sac e chissà quale sarà la strada trovata per uscire. Intanto ieri c'è stato lo spettacolo di Grillo, sapete che sta facendo lo spettacolo, c'è stata anche la protesta di due attivisti gay, Alessandro Scurti e Klaus Mondrian. E devo dire qui, parentesi mia, non se ne può più. Cioè, posso dirlo io, personalmente, non se ne può più. Di questi attivisti che fanno pressione, vanno al Senato, litigano con la Cirinnà. Ma io dico, ma fate le vostre proteste, portate avanti le vostre manifestazioni legittimamente. Ma basta assediare le persone a dire fate questo, fate questo, fate questo. Ecco, ho finito lo sfogo, ma lo dovevo dire, ce l'ho qua, ce l'avevo qua sul gozzo da un po' di tempo. Comunque, la protesta gay allo show di Grillo, il sit-in davanti al teatro, poi dopo dentro il comico li chiama anche sul palco, due attivisti, c'è chi li fischia, ovviamente il Movimento 5 Stelle, nel pubblico c'è chi li ascolta e vabbè. La contestazione, mentre Alfano insiste, Alfano vede la vittoria. Alfano sulla stampa, intervistato da Amedeo la mattina, dice: siamo al girone di andata di un lungo campionato e per ora abbiamo vinto. Matteo mi dia retta, il buon senso non è una cosa vintage, il PD ha voluto strafare, la questione non è Renzi ma una certa sinistra che col consueto radicalismo sposta il PD su posizioni estreme. Comunque, dice Alfano, il torneo è ancora lungo, siamo al girone di andata, e ripropone lo stralcio della stepchild adoption. Ah, staremo a vedere. Anche Ivan Scalfarotto porta avanti le sue idee, giustamente. Sull'Unità, intervistato da Delia Vaccarello, dice: dopo il Family Day, i grillini hanno fatto l'inversione a U, la loro parola non vale nulla. Questo Scalfarotto, intervistato dall'Unità. Come vedete, fuoco di fila di interviste, commenti, eccetera. Ma io voglio abbandonare questo tema che affronteremo tanto la prossima settimana, ci sarà sempre sui giornali, e inserire invece il tema del complotto, che è sempre molto in voga in Italia. E ieri, quando Renzi ha preso la parola per raccontare quello che farà, quella che è la linea, la sua idea di Europa di fronte al Consiglio europeo che c'è oggi, quale sarà la linea sul tema delle banche? E beh, ha fatto un duro attacco anche a Mario Monti, che in Senato aveva detto basta attaccare l'Unione Europea. E, insomma, c'è, come racconta il Messaggero con Marco Conti, l'Europa della Merkel, quella di Cameron, e poi l'Europa di Renzi, che contesta il fiscal compact, l'austerity, il trattato di Dublino, difende Schengen. Insomma, l'Europa di Renzi contro l'Europa dei pro-austerity alla Mario Monti. Ed ecco allora che questo scontro, hanno fatto notare sulla stampa, lo fa notare Fabio Martini, che alla fine dell'intervento di Renzi c'erano Mario Monti e Giorgio Napolitano, senatori a vita, affiancati entrambi con le braccia conserte, nessuno ha fatto neanche un mezzo applauso. Ed ecco che qui si insinua l'idea del complotto. Sentite qui la stampa: i sospetti a palazzo, mandante estero per un nuovo governo. Si ritorna ai tempi di Giorgio Napolitano, Mario Monti, protagonisti di una delle operazioni politiche più controverse degli ultimi anni, il dimissionamento forzato di Silvio Berlusconi nel novembre 2011. In quell'occasione tanti ipotizzarono un concorso internazionale, da Obama alla Merkel, nella rimozione di Berlusconi. Sta di fatto che ieri sera, quando si è concluso questo scontro in aula tra Renzi e Monti, un senatore renziano ha sussurrato: se il professor Monti ha mandanti internazionali per aprire la strada a qualcun altro, stavolta gli andrà male. Già dire stavolta gli andrà male vuol dire che la volta precedente gli è andata bene, quindi c'è stato il complotto per far cadere Berlusconi. Insomma, a Palazzo Chigi qualche sospetto serpeggia su possibili movimenti ostili dalle parti di Berlino, Bruxelles, Londra, Washington. Sospetto avvalorato dagli editoriali critici con Renzi usciti sul Financial Times, sul New York Times, sul Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mauro Meazza. Shh, buongiorno. Buongiorno. quella cosa si fa molto molto sospetta. Perché c'è un complotto. Non so, ma per far vincere l'Inter. Non lo so. Senti, visto che ci vorrebbe un miracolo, un miracolo lì più che un complotto. Ma non fare lo spiritoso fuori posto, che comunque la classifica non è mica così lusinghiera neanche per te. Ma visto che sei sui temi internazionali, restando a cose un po' più tangibili, diciamo, ti vorrei parlare di Brexit. La Brexit, come no? C'è poco da fare. Sono ultime 48 ore. Bravo, vedo che hai il sole 24 ore e me ne compiaccio. Come sempre, però. E guarda che appunto riferiamo di questo vertice molto delicato, proprio perché, come sai, la Gran Bretagna ha posto una serie di condizioni per restare nell'Unione, adesso si tratterà di trovare un'intesa, non un complotto, un'intesa per riuscire a evitare, a scongiurare la Brexit. Intanto ti sei segnato sempre il 23? Come no? Febbraio, eccolo qua. Segnato. Bravissimo, perché sappi che il 23 febbraio ci sarà il manuale dell'educazione finanziaria, i tuoi soldi, non i tuoi, nel senso si chiama i tuoi soldi, manuale di educazione finanziaria del Sole 24 Ore. A proposito di soldi, sai che tornerebbe un po' quest'idea di riaprire la voluntary disclosure, come diceva il nostro amico Angelino? Sì, esatto. Che poi sai che è un insegnante d'inglese, professoressa, ci ha scritto una dottissima mail dicendo che si dice voluntary disclosure. Voluntary disclosure. Allora, io posso, insomma, quella cosa lì, hai presente, sì, te la ricordi? Allora, si sta ragionando più che altro sulle cifre, perché forse ha incassato anche di più di quello che si stimava, però ha incassato poco la voluntary, ho detto giusto, spero, domestica, cioè la voluntary, parte riguarda, con l'accento sulla O, voluntary. Ma non facciamo adesso una questione di accenti, per piacere. No, è fondamentale invece quella. Va bene, volevo dirti che la voluntary domestica ha incassato poco, era quel sistema di emersione, quel meccanismo di emersione per, chissà, tu ti fossi mai dimenticato dei contanti da qualche parte, non l'avessi detto al fisco, può succedere, una amnesia. Sai. Ecco, però quel meccanismo lì non ha funzionato tanto. Ma trovi tutto su Sole 24 Ore, pagine di norme e tributi. Rapidissimamente ti voglio dire che l'incentivo del fisco ci può essere anche per i camini. Caro mio. Leggi Casa 24, come ogni giovedì su casa, su Sole 24 Ore, Casa 24, tra le notizie che riguardano appunto il mondo immobiliare, anche queste indicazioni operative. Quindi ti invito a leggerle con attenzione. E poi devi fare molta attenzione a quel che ha detto ieri il ministro Padoan. Qui spero che non ci siano questioni di accento. Padoan ce ne sarebbero, Passiamo oltre. No, perché tra le altre cose, allora, il ministro Padoan, ne riferiamo oggi su Sole 24 Ore in dettaglio, ha detto che sono migliorati i tempi di pagamento delle amministrazioni, ma ha anche detto che allo stato attuale lui non vede necessità di manovre correttive. Quindi non so se ti è chiaro questa indicazione. Vuol dire nessuna manovrina extra, insomma, così ha detto ieri il ministro. Ma trovi tutto sul Sole 24 Ore. Molte altre cose ti vorrei dire, ma il tempo è tiranno. E poi vorrei anche appunto andare a leggere di molte altre vicende sul sole, come ad esempio questo di Apple e dell'FBI, che è uno scontro mica da poco sui diritti del cliente e quello dei cittadini. Occupatene tu più tardi, caro, io ora devo andare e ti saluto con il traffico. Alessandro Milan, il Sud Tirol della radio italiana. Va bene, mi metto agli ordini, in piedi subito, solo attenti. Allora, cari ascoltatori, grazie. Qui bisogna raccontare ancora dettagli dell'inchiesta della sanità lombarda, perché c'è il senatore Rizzi, è un ex senatore per la verità, Fabio Rizzi, ex presidente della Commissione Sanità, o meglio ancora attuale, però arrestato per presunte tangenti nella sanità lombarda, che è stato beccato, pizzicato anche, racconta un'inchiesta, con 1.600 euro nel congelatore. Come dite, 1.600 euro nel congelatore, che per carità, insomma, tenere al fresco i soldi, non lo so, magari fa bene, magari si moltiplicano, però non lo so perché 1.600 euro nel, nel congelatore, ha oltre a 5.000 franchi svizzeri in una busta, 15.000 euro in una cassaforte lungo la scala che conduce alla mansarda, soldi dei quali Rizzi discute assieme alla sua compagna Lorena Pagani, anche lei domiciliare, che secondo gli inquirenti rappresentano parte del prezzo della corruzione attuata dall'imprenditrice Canegrati per ottenere appalti nella gestione dei servizi ospedalieri di ortodonzia. C'è anche questa intercettazione in cui Rizzi dice, o meglio la compagna dice a Rizzi: ma tu come fai coi pezzettoni che hai in mansarda? Rizzi dovrà anche spiegare al GIP perché sarebbe entrato a gamba tesissima sulla proprietà del gruppo ospedaliero San Donato, in particolare su Paolo Rotelli, nel tentativo di imporre la propria linea, come viene riportata dagli atti. Comunque ci sono appunto dettagli, c'è anche un, più che un'intervista, un colloquio con Roberto Maroni sul Corriere della Sera, un Roberto Maroni che si dice totalmente affranto, dice: non so più a chi credere, non so più a cosa credere. Si racconta anche delle vacanze passate con lo stesso Rizzi, una persona, un collaboratore molto molto fidato. Maroni dice: tradito da Rizzi è una cosa orribile, davvero orribile. Il colloquio è con Marco Cremonesi e Simona Ravizza, pagina 21 del Corriere della Sera. Ho la sensazione di uno che ha avuto a che fare sia con Dr. Jekyll che con Mr. Hyde. Pensate che Rizzi si mise a piangere quando abbiamo fatto la riforma sanitaria, il sogno di una vita che si avverava. Era l'uomo che aveva avuto il massimo della fiducia possibile. E ora, appunto, Maroni che dice: nulla può più essere come prima, neanche con la Lega, qui si parla d'altro. Così Maroni. Tradito Dottor Jekyll e Mr. Hyde, ho visto, dice Maroni. Vabbè, ci sarebbero tante altre cose da leggere. Noi avremo ospite Giovanni Totti, presidente della Regione Liguria, anche per parlare, soprattutto per parlare di questa vicenda del pesce, la guerra del pesce tra Francia e Italia sul Mar Ligure, nel Mar Ligure. Guardate che è una vicenda molto interessante. Oggi Repubblica scrive un articolo in prima pagina perché un anno fa, nel silenzio generale, è stato firmato il Trattato di Caen. E con questo trattato, in pratica, l'Italia ha ceduto una parte dei fondali, del diritto di pesca dei fondali del Mar Ligure alla Francia. E, per esempio, la fossa del cimitero. E dall'altra parte, invece, la Francia ha dato qualcosa all'Italia. Solo che questo accordo, che è stato firmato da Laurent Fabius e da Paolo Gentiloni, ministri degli esteri, di questa cosa non si sapeva nulla, non l'hanno detto a nessuno, per cui ci sono casi di pescatori che vanno a pescare nelle zone di acque territoriali di fatto ora francesi e vengono arrestati. Gamberi e spada, la guerra del pesce conteso che agita le acque del Mediterraneo. Con la Francia ultimo caso di sconfinamento, tutta colpa di un accordo fantasma. E ovviamente i presidenti di regione, sia anche della Sardegna, ma anche Totti della Liguria, dicono: di questo accordo noi non sapevamo nulla, è una vergogna. Comunque siamo qui giusto per dire lo sport. CR7 doma la Roma, alla fine Cristiano Ronaldo ha avuto la meglio per la Roma, ormai quasi certa l'eliminazione dopo aver perso in casa l'andata degli ottavi Champions League 2-0. Ci sarà ora il ritorno a Madrid, ma insomma la si vede abbastanza dura. Ma eccoci qui, dai, alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali è un'intera pagina. C'è Andrea Cuomo che ci racconta: aiuto! Vogliono abolire i fusi orari. Due studiosi americani sono convinti ci vorrebbe un unico orario universale nel mondo. L'idea è di partire dal 2018. Per cui, scrive il giornale, dramma. Si dirà magari è mezzogiorno e qualcuno starebbe mangiando e qualcuno starebbe dormendo. Ma chi se ne frega!